Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Incendi verso la fine dell'emergenza sul Carso e a Taipana, roghi sotto controllo dopo le piogge delle ultime ore. Lavoratori Varzila di nuovo in piazza giovedì, i possibili spiragli per salvare 450 posti di lavoro. Crisi alla Tirso, tavolo fra regione e sindacati il 2 agosto. Il Consiglio regionale approva la manovra estiva da oltre 800 milioni, oltre 50 destinati a risorse energetiche e salvaguardia ambientale. Covid, i contagi rallentano ma in ospedale ci sono più di 300 pazienti, polemica sulla gestione dei contagiati ricoverati. Un nuovo punto di riferimento per il comparto del mobile sarà il campus tecnologico di Brugnera. Onde mediterranee a Gradisca, una serata per Giulio Regeni con Ascanio Celestini, Henry De Luca e Marco Paolini. Festival e concerti, fitta l'agenda musicale, i Litfiba a Maiano per il loro ultimo tour a Fusine, canta Mannarino. Calcio, Udinese battuta 3-1 dal Chelsea, canottaggio, le Triestine Premier, le Zerboni sul tetto del mondo. Sabato 30 luglio sono le 7:19 minuti 30 secondi. Buona giornata da Giampaolo Mauro, Ludovico Fontana. Cielo da nuvolosa coperto sul Friuli Venezia Giulia. Le temperature registrate alle 6. A Trieste 21 gradi, il mare è quasi calmo, l'acqua ha una temperatura di 26 gradi. A Gorizia 20 gradi, a Udine, a Pordenone 21, nell'area montana a Tolmezzo 19, a Tarvisio 15, a Sappada 13 gradi. 13 anche sul Piancavallo, a Forni di Sopra 14 e in quota sullo Zoncolan e sull'Ussari 10 gradi, a Lignano e a Grado 23, temperatura del mare 27. Le previsioni dell'ARPA: nel corso della mattinata si avranno schiarite e in giornata il cielo sarà poco nuvoloso. Nel pomeriggio sui monti avremo nuvolosità variabile con possibili locali rovesci che poi potranno interessare anche qualche zona di pianura. Sulla costa prevarrà il soleggiamento, domani bel tempo. Quanto al traffico, le previsioni parlano di una giornata da bollino nero sulla rete di autovie venete. Oggi il flusso avverrà soprattutto in direzione est. Punti nevralgici, il casello di Latisana e la barriera dell'Isert. In apertura dunque l'emergenza incendi è finalmente sotto controllo, la situazione sul Carso Triestino, il lavoro nella notte di vigili del fuoco, forestali e volontari della protezione civile, la pioggia delle ultime ore hanno contribuito a spegnere gli ultimi fuochi. A Savogna di Sonzo rimane in vigore l'ordinanza di evacuazione a San Michele del Carso. Questa mattina alle 8 si farà il punto della situazione con la protezione civile. Hanno dormito fuori anche questa notte numerose persone. C'è ancora qualche focolaio nella zona di Taipana, ma anche qui la situazione è sotto controllo, così come su Resia, dove continua il presidio dei vigili del fuoco. Il Carso andrà monitorato ancora, anche se come abbiamo sentito l'emergenza sta per chiudersi. E mentre il FAI delle Friuli Venezia Giulia promuove una raccolta di firme per candidare il territorio così fragile al luogo del cuore a livello nazionale, è ancora difficile la stima dell'enorme danno ambientale di 10 giorni di roghi. Costosa in termini di fatiche di centinaia di uomini e donne, di risorse pubbliche, anche l'opera di spegnimento. Sentiamo il racconto della giornata di ieri da Savogna di Sonzo. La scena si ripete ogni 10 minuti, sempre uguale, ma ogni volta lascia a bocca aperta. Un focolaio spento si riattiva, viene individuato, un elicottero arriva e lo spegne dall'alto. Abbiamo anche la fortuna di vederlo a pochi metri da noi, a due passi dalla strada che da San Martino porta a Marcottini. La zona è andata in fumo, forse per colpa della mano dell'uomo, nelle ultime 36 ore. Stavolta l'incendio viene spento con l'aiuto dei gasilzi sloveni. Sono in 50 ad operare, assieme ai colleghi italiani, un'ottantina, e a forestali e protezione civile. La frazione di San Martino è deserta. A valle, a Savogna di Sonzo, dei 200 sfollati, meno di 20 sono ricorsi alle strutture preparate dal comune e dalla protezione civile. Qui troviamo una gattina, un cane e le loro padroncine. E chi ha animali domestici o difficoltà deambulatorie a dormirci. I più anziani, che come tutti preferiscono non apparire, ce lo confermano. Non c'è mai stata una disgrazia del genere negli ultimi 80 anni. Savogna di Sonzo, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. I temi dell'occupazione continua allo stabilimento di Bagnoli della Rosandra, il presidio dei lavoratori Varzila dopo l'annuncio che il gruppo svedese dismetterà gli impianti produttivi. A rischio ci sono 450 posti di lavoro. L'assemblea dei lavoratori e sindacati hanno confermato lo sciopero di giovedì e intanto si cercano possibili spiragli. I lavoratori Varzila di Trieste chiamano la città, danno appuntamento a giovedì 4 agosto. Operai e cittadini sono invitati al presidio che dalle 9 a mezzogiorno si terrà in Piazza della Borsa. L'assemblea dei lavoratori ha formalizzato una decisione nell'aria da giorni e contemporaneamente le macchine nella grande fabbrica di San Dorligo si fermeranno per 8 ore in ogni turno. Astensioni di 4 e di 2 ore ci saranno anche nelle sedi di Genova, Napoli e Taranto. A metà ottobre scadranno i 90 giorni richiesti dalla procedura attivata da Varzila per fermare la produzione. Nessun margine, nessuno spiraglio dal tavolo di crisi aperto al Mise. Ed ora Marco Relli, segretario della FIOM CGIL. Adesso cosa stanno mettendo in campo la Regione e il Ministero, dichiarando non è finita qui, adesso vediamo cosa metteranno in campo. Noi faremo la nostra parte. Non è finita qui, dunque. Ministero e Regione mettono in campo l'idea dell'industria del mare. Per fare cosa? Proprio motori, coinvolgendo Fincantieri e Leonardo, due colossi dell'industria civile e militare partecipata dallo Stato. Varzila ha sedi in tutto il mondo e siti produttivi in Estremo Oriente ed Europa, dalla Spagna alla Gran Bretagna. Una nuova industria motoristica qui servirebbe alle esigenze dei cantieri italiani, dalle navi bianche alle fregate, che spesso montano diesel americani o tedeschi. Se questa ipotesi prende piede, i sindacati daranno più facilmente l'ok al necessario accordo con l'azienda per l'avvio della cassa integrazione per un anno. Ma di mezzo c'è un'elezione, anzi ce ne sono due, le politiche a settembre e le regionali in primavera, ad aumentare le incognite. Trieste, Antonio Cajazza, TGR Friuli Venezia Giulia. Ad aggravare le prospettive occupazionali nell'area triestina con Varzila e Flex, ora anche la crisi della Tirso di Muggia, azienda del tessile la cui proprietà per gli insostenibili rincari dell'energia ha deciso di chiudere la produzione ad agosto mettendo i dipendenti in ferie. Il rischio, segnala Andrea Rizzo, segretario regionale Wiltec e rappresentante sindacale interno, è che alla ripresa scatti la cassa integrazione a rotazione. Fra i 270 lavoratori della Tirso, il 65% è costituito da donne, filatrici e operaie in torcitura. Il 2 agosto è in programma un incontro dei sindacati con la Regione. Intanto l'azienda ha accolto positivamente la richiesta di proroga dei contratti interinali in scadenza. E ieri anche un'accelerazione nell'avvertenza del trasporto pubblico locale, una manifestazione regionale di protesta organizzata da CGL, CISL, UIL e CISAL si è svolta a Trieste davanti al Palazzo della Regione in Piazza Unità. I lavoratori chiedono assunzioni, in particolare tra gli autisti, per colmare organici largamente rimaneggiati. A Trieste ci sono per esempio 120 posti vacanti e poi l'adeguamento di retribuzioni rimaste ferma ai livelli del 2013 e maggiore sicurezza contro le aggressioni. In particolare si chiede l'isolamento delle postazioni di guida e la possibilità di chiamata diretta da parte degli autisti e in tempo reale alle forze dell'ordine. In Consiglio regionale la manovra estiva è stata approvata ieri sera con i voti favorevoli della maggioranza e con quello contrario delle opposizioni. Il capitolo più pesante in termini di risorse è quello della sanità, ma sfiora i 50 milioni la posta su iniziative energetiche e salvaguardia ambientale. I punti di forza, ha sottolineato il presidente della regione Fedriga, sono il sostegno alle imprese, un'importante politica energetica, con opzioni come il protocollo con Slovenia e Croazia e il progetto idrogeno finanziati in maniera ingente e il programma Siccità Zero, in totale più di 800 milioni, ma il valore reale supera il miliardo se si considerano gli oltre 200 milioni di avanzo della gestione precedente, afferma una delle voci delle opposizioni, quella di Furio Onsel, e il segno che la Giunta l'anno scorso è rimasta immobile. Patrimonio, ambiente, sanità ed enti locali, gli ultimi articoli dell'assestamento di bilancio della Regione nell'ultima giornata dei lavori sul disegno di legge che assegna oltre 800 milioni ad integrazione della manovra di dicembre. 133 milioni e mezzo alle politiche della salute, con stanziamenti importanti come 95 milioni di investimenti sanitari sugli ospedali Spoke, l'innovazione tecnologica, l'abbattimento dei prezzi dei cantieri, fino ai 300 mila euro destinati ai pensionati ultra 65 anni con con reddito basso non in grado di pagare le cure veterinarie degli animali di affezione, o i 100.000 euro per l'istituzione di orti urbani sociali a beneficio delle persone disabili. L'articolo di competenza del vice governatore Riccardi è stato approvato con il voto favorevole della maggioranza, il no di Honsel, di Open Sinistra FVG e l'astensione delle opposizioni. Critico Zalucar del gruppo Misto. Si è persa una grande occasione per riammodernare veramente la sanità del post-Covid. Faccio un esempio per gli ospedali: si poteva assicurare a tutti i degenti delle condizioni di privacy, di sicurezza, ovvero le stanze singole che tutti gli ospedali del nord ormai hanno. Il Consiglio regionale ha dato il via libera maggioranza anche all'articolo relativo alle autonomie locali, per cui sono stati stanziati oltre 160 milioni di euro, e all'articolo sulla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, a cui sono destinati oltre 40 milioni. Dalle opposizioni dunque non solo voti contrari, ma anche astensioni. Per la maggioranza una manovra che appoggia la crescita economica del Friuli Venezia Giulia e gli investimenti pubblici e privati. Ivo Morasse della Lega. È una manovra molto importante, oltre 800 milioni, dedicata allo sviluppo per le industrie, a dare degli aiuti alle famiglie, a intervenire dove serve con visione pluriennale. Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca nera, un incendio a Flambruzzo di Rivignano ha gravemente danneggiato ieri sera la pizzeria Al Fiume. Le fiamme sarebbero partite da un magazzino dell'area che viene utilizzata soprattutto nella stagione invernale. Il locale ieri sera era chiuso e non si esclude che il rogo possa essere doloso. Per scongiurare il propagarsi delle fiamme hanno lavorato a lungo le squadre dei vigili del fuoco arrivate dal comando di Udine da due distaccamenti. I dati della pandemia: sono poco più di 1.300 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in regione. Sono stati individuati da circa 7.000 tamponi, il tasso di positività è del 18,5%, mentre l'incidenza è scesa a 873 nuovi casi ogni 100.000 abitanti in una settimana. Il bollettino regionale evidenzia 7 decessi. Quanto ai pazienti ricoverati, sono 311, di cui 8 in terapia intensiva. E sul fronte ospedaliero c'è una discussione legata proprio alla gestione dei pazienti Covid e alla loro presenza nei vari reparti. Riguarda soprattutto l'azienda sanitaria Friuli Centrale. Ha scatenato dibattito la riapertura della RSA Covid a Palmanova, residenza sanitaria assistenziale che ospita 10 positivi su 20 letti disponibili. La conseguenza è la chiusura temporanea della chirurgia programmata, indica la direzione dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale in una nota. Ancora valida la filosofia del cercare di tenere, ove possibile, pazienti positivi che stanno bene in reparto, in ospedale, senza sdoppiamento dei percorsi. Lo sono la maggior parte di loro tra Udine, Tolmezzo, San Daniele e La Tisana. Ma l'elevato numero di contagiati ha costretto l'azienda a individuare una struttura in cui fossero presenti pazienti dello stesso tipo, anche per ottimizzare i tempi di vestizione del poco personale a disposizione. Più del 10% degli operatori risulta in ferie, senza contare i contagiati. Obiettivo, finito il periodo estivo, è di riprendere l'attività chirurgica programmata. Chiedendo in aula quali percorsi alternativi fossero allo studio per garantire l'intervento a chi lo aspetta da tempo, la consigliera regionale dei cittadini, Simona Liguori, dice che la spiegazione del Covid non tiene più, sta recando solo sofferenze. La UIL FPL ipotizza lo sciopero generale come estrema ratio se non vi fossero le condizioni per mettere in sicurezza gli operatori, riconoscendo anche loro l'indennità di malattie infettive, quando costretti a lavorare in reparti con dei positivi. Il sindacato delle professioni infermieristiche, NURSIND, contempla lo stato di agitazione. I numeri degli effettivi, sottolinea, sono già molto al di sotto del servizio minimo che va garantito in caso di sciopero. Già ora, aggiunge il sindacato, si stanno richiamando dalle ferie alcuni infermieri, spostati di qua e di là d'urgenza e senza preavviso. Da ultimo, si registra l'attesa impugnazione da parte del governo del pacchetto di norme regionali nel settore della sanità d'urgenza, misure varate a maggio che prevedevano anche la deroga all'esclusività della prestazione infermieristica. L'amministrazione del Friuli Venezia Giulia annuncia battaglia legale contro la decisione di Roma di andare fino alla Corte Costituzionale. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Donazione di mezza estate a Grado. L'Associazione Donatori Volontari di Sangue FIDAS Isontina, in collaborazione con il Comune e con la Grado Impianti Turistici, organizza una donazione di sangue e plasma speciale con l'unità mobile di raccolta Egidio Bragagnolo, che oggi stazionerà davanti, fuori dall'ingresso principale della spiaggia Git in Viale Dante per tutta la giornata. Torniamo ai temi dell'economia. Uno dei comparti più dinamici dell'economia regionale, quello del legno arredo, avrà presto un nuovo punto di riferimento, il campus tecnologico di Bruniera. Sorgerà a Bruniera il primo campus tecnologico internazionale del mobile e del pannello, una struttura che accoglie le migliori competenze e conoscenze a livello internazionale, con l'obiettivo di formare e aggiornare le imprese del nord-est italiano del settore, un progetto innovativo che innescherà un processo virtuoso partendo dall'attrattività del manufatturiero del Friuli Venezia Giulia, passando per la valorizzazione dei talenti che operano nel processo di digitalizzazione dell'industria per arrivare alla visibilità del territorio regionale in Europa e all'estero. Una realtà che dopo una gestione di quasi 2 anni e l'impegno del territorio, dei cluster Friuli Venezia Giulia, Legno Arredo Casa, imprese di Federlegno Arredo, Asso Pannelli e Università di Udine, grazie allo stanziamento dei fondi regionali assegnati al comune di Bruniera, segnerà una svolta epocale per il distretto del mobile del Friuli Venezia Giulia, un progetto, quello del nuovo centro europeo del mobile, che gode di una partnership pubblico-privata fortemente convinta, in un progetto che rende protagonista uno dei comparti più dinamici in Italia, che in Friuli Venezia Giulia vale oltre 4 miliardi di fatturato annuo, di cui la metà in export. Bruniera, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Si svolgerà dal 26 al 29 agosto la prossima edizione di Aria di Friuli Venezia Giulia, che celebra il prosciutto di San Daniele, ma da anni allarga la promozione ai principali prodotti enogastronomici del territorio regionale, fra cui il formaggio Montasio e i vini bianchi. Oltre agli assaggi, le attività in programma durante la 4 giorni sandanielese prevedono laboratori di degustazione, in cui il prosciutto sarà abbinato in masterclass guidate ai vini, birre e agli altri prodotti a denominazione d'origine protetta, visite guidate in 10 prosciuttifici della zona, visite alle bellezze architettoniche del territorio. La casa delle eccellenze regionali con i prodotti Io Sono FVG sarà Piazza 4 Novembre. È dedicata a Giulio Regeni l'ultima giornata di Onde Mediterranee, una pedalata che partirà alle 18 da Fiumicello, porterà i partecipanti a toccare Ruda, Villesse e Romans per approdare alle 20.30 al parco del castello di Gradisca di Sonzo, dove si svolgerà l'incontro dal titolo Perché Giulio non smette mai di fare cose. Ci saranno Paola e Claudio Regeni, Alessandra Ballerini, Ascanio Celestini, Henry De Luca e Marco Paolini per fare un punto umano e civile di questa dolorosa vicenda anche alla luce dei recenti sviluppi giudiziari. A seguire alle 22 Alberto Bertoli presenterà il suo album Stelle, della vicenda che dalle origini dai grandi classici del padre Pierangelo arriva al ritmo rock dei suoi inediti. Infine le canzoni del cantautore friulano Doro Giat. Penultima giornata di Mittelfest a Cividale del Friuli. Oggi dalle 17 alle 20 ci saranno le consultazioni poetiche nelle vie del centro storico, un progetto del francese Théâtre de la Ville. Alle 17.30 nella chiesa di Santa Maria dei Battuti, Assenza sparsa con Luca Oldani, spettacolo teatrale vincitore di Mittel Young. Poi in serata alle 19 alle 21.30 nella chiesa di San Francesco, replica la versione friulana di Dio del Massacro, il testo di Yasmina Reza, da cui Roman Polanski ha tratto un celebre film, Carnage. Alle 19 all'Orto delle Orsoline il cabaret di clown, musicisti e burattinai di Mr. Moon. Poi chiudono la serata alle 22 al Convitto Nazionale Paolo Diacono le sonate all'improvviso del pianista italo-sloveno Alexander Gagiev, ispirate a Chopin. Prosegue Tree Art, il festival di arte, cultura e ambiente a Butrio. Come l'osservazione della terra e dallo spazio può aiutarci nella lotta ai cambiamenti climatici, questo è il titolo dell'incontro di apertura questa mattina alle 9.30 a Villa di Toppo Florio. partecipano Stefano Ferretti dell'Agenzia Spaziale Europea e seguiranno per tutta la giornata poi altri incontri tra il parco e la villa di Topo Florio con esperti sul monitoraggio dell'aria, i satelliti e l'intelligenza artificiale per la gestione delle foreste e il rapporto tra uomini e alberi. L'appuntamento del pomeriggio è alle 18.30 con Elena Ianni, ricercatrice che ha lavorato con comunità indigene locali in Messico, Argentina e Mozambico. Alle 21 poi il concerto della Friuli Venezia Giulia Orchestra diretta da Paolo Paroni, solista al violino Constantin Beschieru, musica di Dvořák e Piazzolla. L'ultimo tour dei Litfiba fa tappa al Festival di Maiano stasera dalle 21 nell'area concerti, tappa inevitabile per la band che ha fatto la storia del rock italiano e che è passata svariate volte da Maiano. I Litfiba dopo 40 anni si scioglieranno ufficialmente al termine di questa ultima tournée, uno spettacolo dal titolo Dantesco, l'ultimo girone. Sentiamo le parole di Piero Pelù, anima e volto dei Litfiba, con Ghigo Renzulli che presenta lo spettacolo, ma prima risponde alla domanda: ti mancherà Ghigo? Per forza, e io mancherò a lui, ma come nelle migliori storie che a un certo punto devono avere anche il coraggio di dire ok, abbiamo fatto tantissimo, con questo ultimo girone di dantesca ispirazione cambiamo stato. Noi veniamo da una trilogia dedicata agli stati, Stato Libero, Grande Nazione e Utopia, sono gli ultimi tre album di studio dei Litfiba, e quindi a me è venuto in mente che per il cambiamento di stato, ispirarsi al momento in cui Dante e Virgilio si attaccano ai pelacci di Satana per passare dall'inferno al purgatorio, fosse un'ottima metafora. Altri appuntamenti musicali di oggi: a Sesto a Regena per Sexton Plugged stasera suona il duo scozzese degli Arab Strap con le sue sonorità post-rock e new wave. Ad aprire la serata alle 21 sarà la violoncellista Martina Bertoni. Serata finale per San Vito Jazz alle 21 in piazza Stadlon, il concerto Spirit of Mingus con l'Eternal Love Quintet, ovvero il barese Roberto Ottaviano al sax soprano, Marco Colonna ai clarinetti, Alexander Hawkins al pianoforte, Giovanni Maier alla batteria e Zeno De Rossi alla batteria. Nel parco di Villa Manin alle 18.30 di scena al cantautore Giorgio Poi, l'artista romano ha appena pubblicato il suo terzo album. Trieste Calling the Boss al Castello di San Giusto, il tributo a Bruce Springsteen con i livornesi Blood Brothers, preceduti da due gruppi triestini, Ivo Tull Trio con il suo blues transfrontaliero e The Kids con il loro omaggio agli Who. Inizio alle 20.30. E a Trieste prosegue il Festival Triskel al Parco del Ferdinandeo, questa sera di scena dal punto di vista musicale Wooden Legs e gli sloveni Noreia. Nuovo appuntamento in alta quota per il Festival No Borders che prosegue questo weekend. Oggi tocca al cantautore romano Mannarino in concerto alle 14 ai Laghi di Fusine, dove come sempre le attività cominceranno già dal mattino tra degustazioni guidate e immersioni nella foresta. Poi ci sarà appunto l'esibizione di Mannarino, una nuova tappa in montagna per il suo tour estivo dopo quella del 9 luglio scorso in Val d'Aosta. Sentiamo proprio le sue impressioni riguardo i concerti in alta quota in occasione della tappa valdostana e dopo sentiremo Mannarino parlare del suo ultimo album V. Siamo tutti un po' più nudi, c'è un livellamento proprio, esce fuori un'umanità che tra le strade, le vie, i semafori, i palazzetti, insomma è sempre un po' più controllata, quindi qua sicuro quando faccio questi concerti esce fuori un lato diverso sia di me ma anche del pubblico. L'ho fatto in 2 anni, anche un po' di più, prima della pandemia e dopo della pandemia. E durante la pandemia proprio la cosa è stata questa, che mentre stavo chiuso e stavo dentro uno studio e fuori non si poteva uscire neanche di casa, io stavo lì che sentivo rumori di foresta, suoni di natura e l'ho messi nel disco. E adesso la pagina dello sport, quando sono le 7.42 minuti, cominciamo con il calcio. È finita 3-1 per il Chelsea, l'amichevole di lusso giocata ieri sera allo Stadio Friuli dall'Udinese davanti a 11.000 spettatori. In gol nel primo tempo Kanté al 20esimo, Sterling al 37esimo per gli inglesi, con Deulofeu che accorcia le distanze al 40esimo approfittando di una corta respinta del portiere avversario. Chiude i giochi allo scadere dell'incontro Mount, comunque soddisfatto a fine gara Mister Sottil. Dobbiamo crescere e migliorare, dice, ma la squadra ha sempre provato a essere compatta. Oggi si replica alle 11 a porte chiuse, però Udinese e Chelsea si affronteranno di nuovo allo Stadio Friuli, appunto senza il pubblico. Intanto annunciati ieri due nuovi acquisti a titolo definitivo da parte dell'Udinese, il difensore camerunense Enzo Ebosse, 23enne che la scorsa stagione ha giocato titolare nella Serie A francese con l'Angers, e il ritorno del difensore Neuwen Perez, prelevato a titolo definitivo stavolta dall'Atletico Madrid. E ora il canottaggio: le triestine Samantha Premerle e Maria Elena Zerboni sono di nuovo campionesse del mondo Under 23 nel due senza pesi leggeri. Hanno ottenuto il secondo titolo consecutivo ieri a Varese, dove è in corso la manifestazione iridata. Un altro atleta del Saturnia, Filippo Wiesenfeld, ha conquistato il bronzo da timoniere sul 4 con. Ma l'impresa nella giornata che ha visto gli Armi Azzurri conquistare 6 medaglie è proprio delle due atlete allenate da Spartaco Barbo, che hanno stracciato la concorrenza stabilendo anche il record mondiale della specialità. Che dire di queste ragazze? Chiediamo al presidente del Saturnia, Gianni Verone. Beh, che sono una continua conferma, una ottima conferma per quello che è il loro percorso di crescita. L'altro anno Maria Elena ha vinto anche il titolo europeo nella stessa categoria, quest'anno hanno fatto addirittura il record mondiale assoluto, quindi va bene, assolutamente, siamo molto contenti per loro e per noi come Circolo Canottieri Saturnia. Sono una delle vostre punte di diamante, ma a Varese, ricordiamolo, la squadra del Saturnia è foltissima. Sì, la squadra del Saturnia presenta 11 atleti nelle varie categorie juniores e under 23, di conseguenza siamo proprio ben rappresentati e ci aspettiamo anche ulteriori buoni risultati. Quello che importa è che comunque per gareggiare anche ad altissimo livello non è necessario, nel vostro sport e soprattutto con la vostra società, andare via da Trieste. È quello che noi cerchiamo di fare, cerchiamo di offrire agli atleti delle condizioni di assoluta qualità per allenarsi a Trieste o a Monfalcone dai nostri amici di Attimavo, cerchiamo di mettere in condizioni gli atleti di esprimere il loro meglio anche stando a Trieste. E questa mattina ai mondiali di Varese sarà in gara tra gli altri Marco Dri, atleta della canoa San Giorgio, impegnato nella semifinale del doppio Under 19. Ieri la tisanese, in coppia con il comasco Marco Selva, ha vinto la propria batteria dei quarti di finale con il quinto tempo assoluto. La grande atletica torna oggi a Lignano Sabbiadoro per la 33esima edizione del Meeting Sport e Solidarietà, la manifestazione internazionale organizzata allo Stadio Teghile dalla Nuova Atletica del Friuli. Le gare internazionali inizieranno alle 20, 12 le specialità previste, mentre dalle 16 si terranno le competizioni regionali, master e paralimpiche. Tanti protagonisti di oggi sono reduci dai mondiali che si sono appena conclusi a Eugene in America. Dalla Giamaica arrivano ben 7 medaglie iridate, a partire da Sherika Jackson, che ha conquistato l'oro nei 200 metri correndo 21 secondi e 45, la seconda miglior prestazione di sempre. Fra gli altri nomi in gara, ma sono davvero tante le stelle internazionali oggi che gareggeranno oggi a Lignano. Nei 100 metri femminili ci saranno l'olandese Daphne Schippers, due volte oro mondiale a Pechino e a Londra, e le giamaicane Natasha Morrison, Shokoria Wallace, Kashika Cameron e Crystal Sloley. Nella gara dei 100 metri maschili, i riflettori puntati sul liberiano Emmanuel Matadi, nei 400 metri femminili sulla giamaicana Junelle Bromfield, nei 400 ostacoli maschili sugli americani David Kenziera e Aldrick Bailey Jr. Per il mezzo fondo la stella è Mohamed Al-Gharni dal Qatar. E poi ci saranno tanti campioni italiani e glorie regionali, a partire, per quanto riguarda gli 800 metri, dalla bertiolese Sinta Yeu Vissa, reduce dei mondiali di Eugene, e dalla vittoria nei campionati universitari americani. Torniamo al calcio, amichevole con una pari categoria per il Pordenone, che oggi pomeriggio alle 17.30 affronterà il Foggia a Tarvisio, sede del ritiro nero-verde che si concluderà proprio oggi. I pugliesi sono vicini di casa in questo periodo. La partita si giocherà a porte chiuse, intanto definita ieri una nuova operazione di mercato per i nero-verdi, ceduto il difensore Matteo Perri all'Excelsior Virton, squadra della Serie B del Belgio. Sarà fra l'ungherese Tanna Udvardi e la russa Elina Avanaseyan la finale del torneo internazionale femminile di Cordenons con un montepremi di $60,000. Rispettati dunque i pronostici iniziali per le due atlete che sono rispettivamente testa di serie numero 1 e numero 2 del torneo. Sui campi in terra battuta dell'Eurosporting nelle semifinali l'atleta russa ha battuto l'italiana Angelica Moratelli 6-3-6-2, mentre l'ungherese Udvardi ha avuto la meglio sull'austriaca Julia Graber per 7-5-6-1. Il tabellone di doppio è stato vinto invece dalla stessa Angelica Moratelli in coppia con l'olandese Eva Vedder. Le due hanno sconfitto la coppia formata dalla colombiana Giuliana Lizarazo e dall'italiana Aurora Zantedeschi 6-3-6-2. Oggi la finale a partire dalle 17:30. A Trieste tornano le Olimpiadi delle Clanfe, appuntamento dalle 13 allo stabilimento balneare Ausonia per la 15ª edizione di questa scanzonata competizione dedicata al tipico tuffo triestino che ha l'obiettivo di schizzare più acqua possibile. 140 e più gli iscritti dai 6 ai 90 anni che non proporranno solo clanfe naturalmente, ma anche tuffi a bomba e kamikaze. A dare i voti una giuria di qualità di cui farà parte anche la giovane tuffatrice professionista triestina Elisa Cosetti. Le abbiamo chiesto quali criteri adopererà come giurata. Sicuramente i voti saranno molto alti. Vorrei che appunto tutti si divertissero, ma come so che faranno, perché è una gara fatta apposta, insomma. Quindi direi molto alti, premiando soprattutto la, diciamo, suscitare una risata. Ha partecipato in passato alle Olimpiadi delle Clanfe? No, io non ho mai partecipato, però sono venuta più volte a vedere, perché anche, ad esempio, dei miei familiari hanno partecipato, ed è molto una gara molto interessante, insomma. Ma lei si è mai cimentata in questi particolari tuffi? La clanf da triestina la so fare. Parlando invece della sua carriera, insomma, come sta andando? La stagione è appena iniziata, perché io ho partecipato solo ad una gara finora, 2 settimane fa più o meno a Copenaghen con la Red Bull. Le condizioni meteorologiche, diciamo che erano molto sfavorevoli, perché c'era tantissimo vento e tuffarsi già da 20 metri poi col vento diciamo che ti mette in delle condizioni di avere ancora più paura. Però sono contenta che sono riuscita comunque a tirare fuori dei bei tuffi. Poi ad agosto parteciperò agli Europei di Roma e poi appena a settembre a un'altra tappa della Red Bull che è a Polignano Mare. Dove lei ha debuttato nel 2021, la prima atleta italiana a competere nella divisione femminile, che soddisfazione è stata? Diciamo che per ora è sicuramente stata la gara più emozionante di tutte, non solo perché era la prima, ma anche grazie al pubblico che era tutto là per tifare per me. Le 7.50 siamo alla rassegna stampa, titolo unico per le edizioni del Messaggero Veneto, titolo sul previsto traffico di questo weekend, primo esodo estivo, oggi autostrade con il bollino nero. Anche la fotonotizia è la stessa per tutte le edizioni e sul calcio, monologo Chelsea, l'Udinese riesce a limitare i danni. Spazio in prima pagina ai temi della campagna elettorale nazionale. In alto in prima pagina poi c'è anche l'assestamento di bilancio del Consiglio regionale, approvata la manovra record, risorse per 812 milioni di euro è il titolo. La prima pagina della cronaca interna di Udine è sull'aumento dei prezzi per gli interventi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Mancano 10 milioni e mezzo. Il sindaco Fontanini: se non bastano i fondi del governo, siamo pronti a fare la nostra parte. Il capo cronaca di Pordenone è invece sulle via libera al progetto della nuova piazza di Borgo Meduna con fondi regionali. Nelle cronaca locale poi si parla di due incendi sospetti dolosi, quello di ieri al ristorante al fiume di Flambruz, ne abbiamo parlato nel corso del giornale radio, e quello di giovedì al Canoa Club di Sacile. In questo caso scatta la denuncia, ci sono un video e due testimoni. Il Piccolo apre con l'iniziativa del FAI, la raccolta firme per salvare il Carso, al via la campagna di sensibilizzazione mentre si lotta ancora con il fuoco. Ma tra i temi forti in prima pagina c'è il turismo, con una grande foto dedicata ai croceristi. Le toccate di 5 navi in 2 giorni, tra oggi e domani, a Trieste e Monfalcone, portano il totale di quest'anno a 200.000 passeggeri movimentati, un record. Poi ci sono le vertenze occupazionali, Varzila con l'annuncio dell'iniziativa in piazza dei prossimi giorni e il vertice convocato sulla Tirso. Il Piccolo poi pone la lente su Viale 20 Settembre, dove rinascono locali e negozi. L'edizione di Gorizia e Monfalcone ha in prima pagina, sull'emergenza incendi, la foto simbolo di Luca tornato a Marcottini per badare ai suoi animali, 5 cavalli, 3 asini e 20 pecore. Nella cronaca locale, spazio al caso dell'aeroporto Duca d'Aosta che non decolla, titolo il quotidiano, e il capitale in 2 anni si è dimezzato. E poi l'avvio delle indagini sugli atti vandalici all'Ara degli Arditi. Siamo al Gazzettino, titolo principale lo stesso per entrambi i dorsi regionali. Pioggia di multe in autostrada, dall'inizio di giugno un'impennata di sanzioni da parte della Polizia Stradale, torna la moda delle cinture slacciate. Fotonotizia del dorso del Friuli e sullo sport, Deulofeu salva l'onore dei bianconeri, si parla del match di ieri fra Udinese e Chelsea. In taglio centrale, omaggi, fiori e gadget, quanto spende il comune di Udine. Rappresentanza, 15.000 euro nel 2021, furono 11.000 nell'anno del lockdown. In prima pagina anche l'emergenza incendi e poi per i lavori pubblici, a ottobre pronto il primo ascensore per salire al colle del castello. Sul dorso di Pordenone del Gazzettino, come fotonotizia centrale, droga, sesso e risse, le zone dei balordi, un viaggio nelle piazze dello spaccio, nei quartieri di Pordenone. In taglio centrale i lavori a Borgo Meduna, dopo 20 anni si farà la piazza, e poi per quanto riguarda il rogo al Canoa Club di Sacile, in cui sono rimaste distrutte 50 barche, gara di solidarietà, arrivano barche in prestito da tutto il nord. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda alle 11.30 con lo speciale Mittelfest condotto da Mario Mirasola in diretta da Cividale del Friuli. Tra gli ospiti gli attori del Teatro della Pergola di Firenze, Alexander Gagiev, pianista e ambasciatore di Gorizia, capitale europea della cultura 2025, il presidente di Mittelfest Roberto Corciullo e Rita Maffei, attrice e regista del CSS di Udine. È tutto per questa edizione che è stata realizzata da Ludovico Fontana e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Roberto Cavallari e Walter Vidonis, ha collaborato in redazione Edoardo Veglia. 7:55 minuti quasi, il punto su traffico e viabilità in regione, poi GR1 delle 8. Noi ci risentiamo alle 12.30, grazie per l'attenzione, buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.